Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buona domenica da Stefano Gallarini, la versione estiva del riposo del guerriero che prende in prestito alcune delle parole dell'estate per farne un po' il tema della puntata. Oggi le parole chiave sono due e sono quelle che non possono mancare. Quando si parla d'estate non possono mancare l'amore e il divertimento, che poi ci siano o meno, mi auguro che ci siano ovviamente per tutti, però al di là di questo sono parole che vediamo anche intorno a noi. L'amore, se viene, speriamo di sì, e se c'è da mantenere sicuramente, e il divertimento, anche quello deve arrivare, se non arriva lo si cerca un po', bisogna fare in modo che l'estate lo sia davvero per tutti. E quindi di amore, di divertimento parleremo, vedremo queste parole nei film che ce lo raccontano, i film che magari potremo vedere anche nei cinema all'aperto, quelli che d'estate funzionano al di là delle zanzare. E l'amore da leggere, ce n'è tanto, con tanti libri che in questo momento sono in cima alle classifiche, ma anche l'amore da scoprire in quelle città dove davvero è possibile dire ti amo ed è possibile sicuramente divertirsi. E per iniziare, la canzone per eccellenza, un Edoardo Vianello che vede tutte come abbronzatissime. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mar non potrò dimenticar. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mar e non potrò dimenticar. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare. Ovviamente questa è proprio la canzone dell'estate. A me, quando così è venuto in mente di pensare a una canzone dedicata a questo periodo dell'anno, e questo è Edoardo Vianello con Abbronzatissima, resta la canzone dell'estate in qualche modo. Antonio Mancinelli, buona domenica, ciao, benvenuto. Buona domenica a voi e grazie di avermi invitato. Sei d'accordo con me? Che la canzone Abbronzatissima sia la canzone dell'estate? Sì, in qualche modo. Perché poi alla fine l'estate ha degli... come diresti tu, ha degli hit, dei must, espressioni spaventose. Comunque sì, devo dire che l'estate poi ha questa sorta di tormentoni che si ripetono puntuali, malgrado il mondo cambi, ci sia il buco nell'ozono, la crisi, la recessione globale, ci siano comunque dei capitoli forti. E quindi allora, infatti, l'argomento di oggi, cioè, in generale, è l'amore e il divertimento che non possono mancare d'estate, non devono mancare mai, tu dici, lo so. Questa cosa anche questa è molto divertente, come mai si parli moltissimo sui tabloid, sui giornali più o meno di gossip, ma anche su giornali insospettabili, di amori, di flirt, di matrimoni, di coppie che si formano e talvolta anche si dividono d'estate, come sono d'inverno, vada in letargo ormonale e non succeda nulla. Ma ribadisco, è il fatto che c'è meno da dire in generale. No? Sicuramente, questa è una grande verità, quella che stai dicendo è una grandissima verità. E quindi succede questo. E poi perché l'estate un po' porta a questa, anche la voglia di davvero rilassarsi. Allora, tu come caporedattore di Marie Claire, quando dovete decidere il numero di agosto... Sì. Probabilmente anche quello di luglio, però deciderete gli argomenti dell'agosto, che sono certo, gli argomenti dell'agosto, che sono il sesso. Vedi, con ragione, quindi comunque quelle sono le cose. Allora, quando Gallerini ha ragione, bisogna riconoscerli, nel senso che anche nei giornali, anche nei più, come dire, insospettabili, come può essere il mio, in effetti ci sono degli appuntamenti fissi, che sono l'oroscopone. Vabbè, ce l'abbiamo anche noi alla fine della puntata. L'oroscopo è quindi, come dire, immancabile. Che ogni volta tentiamo di fare in maniera diversa, ma insomma comunque la gente vuole sapere come andrà l'estate, soprattutto se cuccherà. Sì, che ci creda questo, o meno, quello è meno, il gioco. Comunque, sì. È importante. Anzi, scusami, ricordo che più tardi, alla fine della puntata, avremo Antonio Capitani, che è ospite fisso nel Posto del Guerriero in versione estiva, e ci racconterà proprio questo segno per segno. Poi la settimana prossima faremo un'altra cosa, però... Questa settimana è così, è proprio classicone. L'altro classicone, come giustamente dicevi tu prima, è il sesso. E per esempio nel numero di questo mese, che è agosto, abbiamo interpellato ben 25 sessuologi facendogli domande assolutamente irriferibili, ma dunque gliele abbiamo riferite, questi ci hanno anche risposto, per cui è diventata una guida molto divertente, anche leggermente hot, appunto, come il clima. Posso chiederti una cosa? Prego. Li fai tu i sottotitoli dei sì, titoli? Purtroppo sì. Allora, perché ve lo voglio leggere, scusate, ve lo voglio leggere, perché, allora, sesso tecno, vabbè, ma attenzione a Mancinelli, che cosa ha scelto? Sesso tecnico. A tecnico, scusami, che tecno leggevo. È per questo, il suo ricordo di quando era giovane ballava su un cubo con un perizoma di paillette. Non l'ho mai fatto, ma comunque... Attenzione, il sottotitolo è 25 esperti prendono posizione. Certo. E comunque, qua mi fermo. A parte, sono 25 esperti veri, abbiamo interpellato uno per uno chiedendo loro delle cose veramente molto, come dire, che poi secondo noi sono delle curiosità che abbiamo tutti, dal rapporto Ferros e cibo a così via, insomma, giochini più o meno strani, visto il grande successo. Qui cerchiamo di tirare su un pochino il tono di questa conversazione, di questo bestseller che si chiama 50 sfumature di grigio, che ha avuto un tale successo da aver sdoganato quello che una volta era il sadomaso e poi invece adesso è diventato una pratica quasi casalinga. Ecco, dopo di te ne parleremo proprio con Alessandra Tedesco, proprio di questo volume e anche di altri romanzi. Allora, volevo capire a questo punto, visto che sei qui, chiederti che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo vestirci, insomma, come dobbiamo porci secondo te per che l'amore possa arrivare a bussare le nostre porte d'estate, perché anche l'abbigliamento ha il suo perché. L'abbigliamento ha il suo perché, come dire, funziona sicuramente un pochino da specchietto per le allodole. E sebbene sia convinto che prima o poi l'amore arrivi per tutti, a prescindere da come siamo vestiti e da dove siamo, sicuramente, ecco, una cosa molto interessante che abbiamo visto è che c'è una grande connessione tra vita privata, quello che una volta Gallerini si avrebbe detto pubblico e privato, c'è moltissimo, nel senso che come... ci sembra così vecchio, no? Delle espressioni tipo, se posso dirlo, bunga bunga, un certo tipo di, come dire, di estetica molto esibita. Adesso paradossalmente, sia nelle sfilate, ma vedo anche in giro, insomma, normalmente per strada, vedo le ragazze molto coperte e paradossalmente forse in questo momento... sedurre attraverso qualcosa che, no, il famoso vedo non vedo di una volta sta diventando molto più di tendenza e di moda che non invece mostrarsi interamente come si è e quindi non lasciare più spazio alla sorpresa. Il riposo del guerriero. Com'è Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire. Prima Antonio diceva che dopo i fenomeni anche legati un po' al bunga bunga si è tornati a una sorta di sobrietà. se non ho capito male. Sì, adesso sì, sì, una sorta di sobrietà e anche, devo dire, a un'ondata di romanticismo, no? E secondo me anche tutta quella serie di scandaletti estivi a cui eravamo abituati è stata improvvisamente sostituita già dall'anno scorso con i grandi matrimoni di Kate e William e poi del principe Alberto con Charlene. Si sta tornando moltissimo, insomma, al matrimonio, a tutto un discorso di coppie serie, alla Hunziker, che adesso ha questa storia d'amore molto romantica, molto bella. Quindi anche la moda è una moda estremamente romantica, quindi abbiamo visto proprio sulle passerelle, insomma, molte gonne, molti tessuti leggeri, molta voglia di viversi un po' un'estate appunto romantica, un po' tenera, in cui l'erotismo passa un pochino in secondo piano, quando poi si legge appunto 50 sfumature di grigio, ma in cui non c'è più una corporeità troppo esibita, e questo secondo me è paradossalmente molto più moderno che non appunto la coscia di fuori o il seno in bella vista, qui eravamo stati abituati fino a qualche anno fa. Ci sono i corsi e ricorsi comunque in questo. Ci sono i corsi e ricorsi, infatti. Ma posso scusami, un dato in tutto questo: se pensate che un imprenditore che comunque ha dimostrato una grande intelligenza, perlomeno appunto dal punto di vista commerciale, come Fabio Briatore, ha chiuso il Billionaire, che è stato un pochino il simbolo, no, di questa vita dorata degli anni 90, è un sintomo comunque che c'è nell'aria un pochino di quello che in gergo chiamiamo richiamo all'ordine. Chi richiama all'ordine, che non vuol dire essere noiosi, e siccome questa puntata è dedicata anche al divertimento, ci si può divertire pur restando diversi, low profile, pur no? Restando assolutamente low profile. Tanto è vero che, per esempio, una delle occasioni che possono essere di grande divertimento, in cui magari non dico granellare qualcosa, ma che è sicuramente un rimedio anticrisi divertente, sono gli swapping parties, che sono queste che abbiamo importato dall'America, che sono un po' come garage sales, quando si vende tutto, quando c'è un trasloco, si trasferisce. E negli swapping parties ci si scambia letteralmente vestiti, si barattano, ecco, sostanzialmente vestiti fra le ragazze, per cui magari, non lo so, il paio di jeans che non ti entrano più perché hai messo su 2 kg stanno bene alla tua amica, da cui puoi prendere la sua camicetta, e stanno prendendo molto piede, proprio perché sono una buona maniera per cambiare un po' il guardaroba, per non avere sempre le stesse cose e allo stesso tempo non spendere troppi soldi. Senti, per le donne forse è un po' più facile, per gli uomini non so, quindi crea un po' di romanticismo e di ritorno alla sobrietà, no? Per l'uomo questo cosa significa? Per l'uomo questo secondo me significa forse, mamma mia come stiamo diventando seri, ritornare a esercitare quelle nobili arti che si chiamavano corteggiamento, che si chiamavano un po' gentilezza. Ecco, trovo che ci sia soprattutto nei giovani un certo ritorno dei valori proprio seri, importanti, appunto lo stare insieme, il pensierino, il mazzo di fiori, che la galanteria, la galanteria assolutamente come nuova forma di modernità. Senti, mi spiace Gallerina, ma, io sono d'accordissimo, ma invece dal punto di vista dell'abbigliamento, perché noi uomini non è che possiamo sbizzarrirci, ma no, molto, infatti, cioè, se robe sono, però non so, anche quest'anno per esempio per passare all'uomo c'era moltissimo bianco, no? Un po' Grande Gatsby, quindi questa eleganza un pochino da college, e invece per i giovani c'era tantissimo anche questo tipo di look appunto da campus universitario americano, quindi tutto sommato il lato per bene del ragazzo non è più il bad boy ragazzaccio o quello troppo muscolarmente esibito, anche se dovere di cronaca ci impone di segnalare che uno dei prossimi film che vedremo nell'inverno è su questo gruppo di spogliarellisti capeggiati da Channing Tatum, per cui sicuramente l'aspetto fisico conta, ma non è più così predominante nella sua muscolare spettacolarità come era stato fino a qualche anno fa. Tatuaggi esibiti o nascosti? Tatuaggi possibilmente inesistenti. guarda, questo è impossibile. No, perché da quando i calciatori hanno cominciato a mettersi sulle braccia i nomi, sì. Basta, lì è una moda che è esplosa. Purtroppo abbiamo queste braccia piene di nomi, sì, facciamo anche fatica a leggere. I tatuaggi, perché, non so, personalmente li trovo, come dire, complessi da gestire, soprattutto da indossare. Io dico sempre questo a chi, ai miei amici che se li vogliono fare, cioè pensatevi a 70 anni con questo tatuaggio che ormai sarà completamente completamente sparso sulle braccia, avete le braccia blu, quando vi faranno all'asta non sapranno bene dove comincia il tatuaggio, dove finiscono. Credo che vada oltre il raggio sì. X, però. Quindi non lo so, insomma, mi sembra anche quella tutta una tendenza che però sta un pochino tramontando, insomma. Non lo so, non lo so, ho i miei dubbi sinceramente. Sì, dipende da chi frequenti, comunque normalmente, generalmente vedo che, ecco, mentre stanno prendendo molto piede i piccoli tatuaggini sulle ragazze, sui ragazzi, dopo essersi fatti i famosi tribali, per cui intere spalle piene di simboli, non so, maori e così via, adesso c'è invece tutto un problema di come rimuoverli, sperando anche di non fare l'errore di mettere il nome della fidanzata che poi, da cui poi si viene lasciati o che si lascia dopo due mesi, come appunto avevano fatto degli attori molto famosi, perché lì poi le cose si complicano e quindi bisogna poi intervenire o riscrivendo qualche altra cosa sopra o cercando di eliminarlo con il laser, ma non è una buona cosa. Allora, prima di salutarti, la domanda è: visto che stanno andando di moda i piccoli tatuaggi sulle ragazze, dove secondo te? È una domanda personale. No, no, tu secondo me io trovo molto molto erotico i tatuaggi sulle caviglie e trovo assolutamente, come dire, appetitoso. Ho visto proprio l'altro ieri una ragazza bellissima che aveva una serie di piccole stelline dietro l'orecchio che arrivavano fino al collo, e l'ho trovata una zona che in effetti sul maschio poi risveglia così è come desideri se, è come se dicesse baciami da qui a qui, esattamente, no? Però in maniera molto sofisticata, assolutamente non volgare. Grazie. Se volete conquistare Antonio Mancinelli, oltre a leggere Marie Claire, potete anche farvi il tatuaggio come ha appena descritto. Ciao Antonio, forse grazie. Ne vale la pena. Buongiorno a tutti. Il riposo del guerriero. E la parola d'ordine del riposo del guerriero di quella settimana è amore e divertimento, che sono le due cose che non devono mancare d'estate. Ci devono essere sempre. Alessandra Tedesco, sei d'accordo? Sono d'accordo. Amore e divertimento. Amore e divertimento. Se non ci sono d'estate, quando ci devono essere? A novembre. Ma ci dovrebbero essere sempre, per la verità. Però d'estate si cercano un po' per forza anche. Ma sì, fanno parte un po' anche dell'iconografia dell'estate, insomma. Le storie estive, la spiaggia, il mare, più libertà, i tradimenti anche. Sì, sì, perché sì, fanno d'estate, parte dell'estate. Il gioco estivo tutto. È fatto anche di questo. E poi le letture, spesso sotto l'ombrello, sono fatte di letture rosa, rosa rosso, sì, con varie sfumature, rosa giallo. Chi non riesce a ottenere le due cose per una ragione o per l'altra, magari un amore nuovo perché ne ha già uno, il divertimento perché già si diverte, allora legge e in quel momento fantastica. No? Sì, sì, sì, legge fantastica. Insomma, da Liala in poi, devo dire, anche Liala ai suoi tempi, per esempio, era considerata una non scrittrice, invece adesso, insomma, è stata rivalutata. Perché è stata rivalutata, secondo te? Ma perché tutto il genere, diciamo, rosa femminile è stato un po' rivalutato, è sempre considerata scrittura di genere, chiariamo, come i gialli sono scrittura di genere, molti dicono non è letteratura, è vero, però consideriamo che la maggior parte dei lettori sono donne, più del 60-65% sì, sono donne che vanno alla ricerca magari di storie non necessariamente scritte da donne, ma che abbiano, come dire, certi, l'espressione di certi sentimenti, di certe emozioni. Poi consideriamo anche la moda che è nata con Bridget Jones, da Bridget Jones in poi, che è stata definita la chick lit, ossia la letteratura per pollastrelle, che era quella letteratura rosa mixata con molta ironia, cosa che prima non si faceva. Insomma, i vecchi Harmony erano grandi passioni, amore. Invece da Bridget Jones in poi si è inserita, per esempio, l'autoironia, l'ironia, la capacità di guardare il mondo in modo diverso. Certo, la protagonista è sempre una ragazza sfigata che va in cerca di marito, fidanzato, convivente, quello che vuoi, i tempi sono cambiati, però il meccanismo è sempre quello, è la ricerca dell'amore. Sì, ma l'amore poi è sempre quello, in generale. L'amore è sempre, no? Ecco. l'amore è sempre quello. È il motore di tutto, anche della grande letteratura, fra l'altro. Assolutamente. Quindi, tra l'altro, per esempio, ultimamente si stanno affermando anche dei romanzi del mondo gay e lesbico, in cui si raccontano storie d'amore in questo campo qui. Un romanzo straordinario in questo senso è Goditi il problema, di Sebastiano Mauri, pubblicato da Mondadori, dove lui racconta, era andato a New York, York, faceva l'artista, eccetera, come ha lentamente fatto questo coming out del suo essere gay e come ha iniziato ad avere le sue prime storie, ma l'ha raccontato con grande ironia, quindi cioè si può sorridere anche sulle difficoltà che alcune storie d'amore comportano. E infatti mette problema nel titolo, no? E infatti goditi il problema, quello che sarebbe in teoria per gli altri un problema, invece poi lui l'ha saputo insomma girare nella felicità della sua vita, perché tra l'altro è una persona simpaticissima, molto timido, però insomma come persona è veramente mi piace, ecco, mi è simpatico. Sebastiano Mauri mi è simpatico, lui lo sa, quindi lo posso dichiarare pubblicamente. Nella tua valigia rosa cosa hai messo? Vabbè, nella valigia rosa non può mancare quest'anno 50 sfumature di grigio, ormai è in classifica non so da quante settimane, c'è questa trilogia più che rosa direi quasi rosso hard, 50 sfumature di grigio, poi c'è 50 sfumature di nero e poi 50 sfumature di rosso. Tutti e tre i libri praticamente sono gettonatissimi, li ha scritti un'autrice inglese che si firma come E.L. James, sono pubblicati da Mondadori e sono appunto venduti come romanzi ad alto tenore erotico. Sì. Devo perché dire lo che... dici sorridendo? No, lo dico sorridendo. L'hai letto il libro? No, adesso ti racconto. Sì, allora, voglio capire. Io non l'ho ancora letto, però l'ho dato ad amiche fidate da leggere. Sì. E tutte, diciamo, sono abbastanza d'accordo nel dire, ma fino a metà libro non succede ecco, niente. Ecco, perché lì volevo arrivare proprio lì, hai capito? Allora, io ho aperto un giorno a caso in redazione, sì. 50 sfumature di grigio, ho detto adesso vi leggo un pezzettino, sono diventata a Bordeaux e non ho letto più niente, perché un conto me lo leggo per i fatti miei e un conto insomma se devo leggerlo ad alta voce sono ancora un quindi po' pudica. Quindi è erotico da un certo punto in poi da sicuramente. Da un certo punto in poi c'è stata una mia collega, non dico chi, sì. Che mi ha detto ah però certe cose non le immaginavo neanche. Bene. Dico e vabbè, si finisce mai di imparare. Quindi un romanzo vita. Educativo. Sì, potremmo fare sì un'educazione sessuale, tipo il sex ed educational show. Non è mai finita quella, eh? No, quella, insomma, sì. Le nuove generazioni devono pure imparare. Anche, se anche da le questo, vecchie. Da questo punto di vista ti sì. Faccio proprio un piccolo coso sul passato, un libro meraviglioso che ho veramente amato tantissimo, Politics di Adam Tyrwhell, pubblicato da Guanda. Magari avremo modo di parlarne, se avremo una puntata dedicata ai libri del passato. Che vanno recuperati. Perché c'è il suo perché, insomma. Andiamo avanti. Allora, per questa estate rosa, ecco, vi propongo un giallo rosa, sì. Un mix che ho letto e mi ha divertito parecchio ed è di Gabriella Genisi, si intitola Uva Noir ed è pubblicato da Sonzogno, che è una delle case editrici dei marchi che pubblica di più la letteratura femminile, insomma. La protagonista seriale dei romanzi della Genisi è Lolita Lobosco, un commissario che lavora appunto nella questura di Bari. Sì, ma col nome Lolita. Col nome Lolita, ecco, cioè, certo, fa pensare ad un passato di Nabokov, sì. Però insomma è un personaggio veramente curioso ed è veramente un personaggio simpatico. La cosa che mi è piaciuto di questo romanzo, poi ce ne sono altri due, La circonferenza delle arance e Giallo ciliegia, hanno tutti nomi di frutta praticamente, perché lei è molto legata a questa mediterraneità dell'ambiente. Quello che è molto carino è il linguaggio che lei usa, perché è tipicamente barese, cioè non è dialetto, ma ci sono modi di dire tipicamente baresi. E io, che sono nata e cresciuta per 25 anni a Bari, ho riso come una matta, insomma. Comunque perché... comprensibili da tutti. Assolutamente, sono semplicemente modi di dire, sì. Costruzioni. E pensa che il linguaggio della Genisi è stato studiato da una ricercatrice dell'Università di Bari perché lo considera un linguaggio innovativo. Lei, per esempio, usa le parole tutte attaccate, tipo l'amore dolce mio, perché a Bari si usa dire si dice così, si dice velocemente, sì. Così, quindi anche nella scrittura lei ha reso questo ed è molto divertente per questo. Poi allora una proposta chic. Sì. Direi una proposta chic, perché da Adelphi arrivano solo proposte da avere chic. In valigia, anche se non lo leggerete mai, così no, per farlo no, vedere no, alle no. Amiche Adelphi no. È una casa editrice che amo e veramente quando mi consigliano qualcosa in genere no, no, non per quello, perché essendo chic, hai capito, devi comunque far vedere quello, di averlo per sì, quello. Ecco, sì, ve lo potete portare anche, non so se andate in vacanza, dimmi un posto fico dove si va in vacanza, non so. Io non li conosco, neanche io, perché sai vado che in non Calabria, sono un viparo, quindi, per cui non lo so, vabbè, nei posti fichi. Adelphi propone, fa queste operazioni nostalgia che sono fantastiche. Due anni fa, vi ricordate il caso Zia Mame, un libro degli anni 50 ripubblicato in Italia, era stato già pubblicato, è stato primo in classifica per un sacco di tempo, un libro Adelphi primo in classifica per tutta l'estate, è un libro spassosissimo, se non l'avete letto leggetelo d'estate perché è veramente carino, Zia Mame di Adelphi. Però Adelphi invece quest'anno ci propone L'amore in un clima freddo di Nancy Mitford, è considerata una delle più originali, diciamo spiritose, ironiche scrittrici inglesi, e questo romanzo è apparso per la prima volta nel 1949, quindi ancora una volta Adelphi ci propone un'operazione nostalgia. Io non l'ho ancora letto, me lo tengo vicino al comodino perché mi fido della proposta di Adelphi e lo leggerò con piacere. Ecco, sarebbe curioso fra l'altro se avete la libreria della nonna per esempio, andarli magari a recuperare in edizione originale a questo punto. Magari, ma guarda, io ho recuperato dalla vecchia, diciamo, casa di mia nonna i libri che aveva mio zio Giovanni, e fra questi per esempio ho recuperato... Tuo zio o tuo prozio? No, mio zio. Ah, tuo zio proprio. Quindi il figlio di mia nonna, e aveva un sacco di libri, avevo recuperato, mi ricordo per esempio un vecchio volume di Lolita dell'epoca, quindi degli anni 50, fine anni 50, e altri volumi, non so, mi ricordo La ragazza di Bube, altre cose che ho avuto il piacere di leggere con quell'odore di carta un po'... Ecco, quello è sempre una di quelle cose che l'e-reader non potrà mai avere. No, l'e-reader non potrà mai avere quel fascino. Di Framette c'è questa lotta, insomma, tu partecipi per l'e-reader? No, assolutamente no, nel senso che sono un grande fan della comodità di avere in un supporto, certo, molto leggero tanti libri, e poi in effetti ti fa venire voglia di comprare. È vero, perché hai tanto a disposizione, scarichi già i primi capitoli, se ti interessa lo acquisti, se no, e questo è molto comodo, ma è chiaro che è impareggiabile. Io poi sono uno che tocca tantissimo la carta, per esempio quando legge. A me se dà fastidio la carta, ho le famose gocce d'acqua, no, che si formano proprio per chi tocca sui polpastrelli, e quindi figurati, per me la carta è importante, l'odore del libro è importante, perché la forma. Esatto, sai, quando tu parlavi di libri di tuo zio, che quindi hanno quell'odore, appunto, quel profumo, lo chiamerei di stantio di quasi, vecchio. Però essendo anche un libro stampato in quegli anni, ovviamente, ti riporta proprio indietro nel tempo anche dal punto di vista dell'olfatto, e questo aiuta nella lettura. Ecco perché però sostengo entrambe le cose. Tu che sei comunque un amante delle nuove tecnologie, sì, ti regalo una chicca. Vai. Perché per quest'estate Rizzoli ha lanciato Rizzoli First, che è una collana di narrativa digitale, cioè pubblicano prima in digitale e poi in cartaceo. Adesso ci sono due volumi a disposizione, L'amore quando tutto crolla, quindi un rosa, scritto da Giulia Ottaviano, ed è stato pubblicato in contemporanea in Europa e negli Stati Uniti, sia in italiano che in inglese. E poi c'è il classico giallo, appunto perché d'estate vanno i gialli, Roma assassina di Umberto Lenzi, quindi su Rizzoli First si possono comprare questi. Così ti ho regalato anche, insomma, dei... Una chicca, grazie, un'anteprima. Allora, tanto per ricapitolare, oggi appunto stiamo parlando con Estano Tedesco di libri rosa, ma non solo, rosa gialli, rosa rosso, ormai dici che rosa è molto misto. Mille sfumature di grigio, di rosso, di rosa. Esatto. Ricapitolando, che cosa possiamo permetterci di leggere? La trilogia di E.L. James, Mondadori, 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di rosso, 50 sfumature di nero, decidete voi l'ordine, insomma. Poi Adelphi, L'amore in un clima freddo, operazione appunto nostalgia, come dicevamo, degli anni 40, Gabriella Genisi, Uva Noir, pubblicato da Sonzogno, un rosa giallo, e poi per ultimo vi consiglio al volo la proposta di Newton & Compton, rosa, perché è la proposta classica dell'estate, a 9,90, che si intitola Oddio, ho un vuoto di memoria, I Love Tiffany, anche quest'anno compare il nome Tiffany. L'anno scorso c'era stato Un diamante da Tiffany, grande successo dell'estate, quest'anno da Newton & Compton, I Love Tiffany a 9,90. Dopo la colazione, Tiffany è sempre un nome che fa piacere ascoltare. Mettere Tiffany nel titolo funziona sempre. Grazie Alessandra Tedesco, ci vediamo la settimana prossima. Ebbene sì. Il riposo del guerriero. Questo è il momento di Marta Cagnola, che saluto. Ciao Marta, buona domenica. Buona domenica a tutti. Altri termini che identificano inequivocabilmente l'estate sono l'amore e il divertimento, due cose che non possono assolutamente mancare. Purtroppo a volte l'amore manca, ma lo si cerca sempre l'estate, no? Anche quando poi non si trova. Anche il divertimento a volte manca, però se ci si va alla ricerca entrambi si trovano. Anche fare uno sforzo in questo senso, no? Ma non pensiamo che ci regali niente la vita, noi andiamo sempre alla ricerca. Anche perché sono quelle cose che, insomma, se vuoi che arrivino, arrivano. Ecco, cioè, perché è una cosa che devi volere un po' anche tu, no? Poi sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Magari non come avresti voluto, però intanto accontentiamoci. Ma anzi, magari meglio. Allora oggi vediamo un po' di parlare di amore e divertimento per quanto riguarda, per esempio, i film. Ah, che meraviglia. Se tu mi dici amore, io ti dico subito l'attore di cui mi sono innamorata. Chi è? Come se avessi 15 anni. Michael Fassbender. Attore metà tedesco, metà irlandese, bellissimo. Io ho avuto questo colpo in testa l'anno scorso alla mostra di Venezia, ho visto Shame, non mi sono mai più ripresa. Quindi io consiglierei agli ascoltatori, sì, non a tutti, adesso spiego perché, di rivedere Shame. Ne ascoltiamo un piccolissimo estratto. Non ho un altro posto dove andare. Avanti, mi dici che stronzata è. Sei mio fratello. E allora? Sono responsabile per te? Sì. No, non è così. Sì che lo sei, cazzo. No, tu non sei mia figlia, non ti ho messo io al mondo. Sei mio fratello, sono tua sorella, siamo una famiglia, dobbiamo occuparci l'uno dell'altra. Tu non ti occupi di me, io so badare a me stesso. Io sto provando ad aiutarti. E come mi aiuti, eh? Com'è che mi aiuti? Come cazzo mi aiuti? No, quante parolacce. La frase era molto chiara. Quante parolacce. Ebbene sì, è un film un po' estremo, un po' a volte violento. Posso dire che è anche un po' hard, perché ci sono delle scene inequivocabili. Però bisogna andare al di là di questo aspetto. Tutto del deve film. Essere inserito in un contesto. Tutto chiaramente, deve essere perché inserito in abbia un contesto, logica, anche un la senso. Bellezza estrema di Michael Fassbender. Perché è un film, secondo me, molto bello, anche piuttosto scioccante, sconvolgente. Racconta la storia di com'è spesso l'amore, soprattutto per un genere di persone. E il protagonista è un uomo che non sa amare, e scopriremo dalla sua storia familiare che ha anche delle ragioni molto profonde per non sapere amare, e che è un uomo vorace, al quale le donne non bastano mai. Ed è un uomo che soffre molto per tutto questo, e secondo me è un film che davvero va a toccare delle corde molto profonde. Io sto sempre molto attenta a consigliarlo, perché è davvero un film estremo, però è un film che nella scorsa stagione mi ha davvero toccato. Guardandone tanti non è facile essere davvero colpiti. Da Shame sì, molti colleghi, molti critici l'hanno odiato, e secondo me i film che o uno ama o uno odia sono sempre quelli più forti. Sì, quando qualcosa divide vuol dire che un motivo c'è, no? Ebbene, siamo nel piattume in qualche modo. Ecco. Nel piattume o nel pattume? No, quello purtroppo c'è anche, però. Quello proprio a tonnellate. Visto che siamo rimasti ancora alla mostra di Venezia dell'anno scorso, in attesa della prossima, Carnage, Roman Polanski, anche qui... l'amore, più che il divertimento qui proprio l'amore, e anche qui l'amore più come è che come dovrebbe essere, perché è una storia di rapporti familiari, di conflitti tra coppie di genitori, un film tratto da una pièce teatrale, un film veramente molto molto molto bello, che è piaciuto tantissimo l'anno scorso alla Mostra di Venezia. Devo dire, bravissimi gli attori, vabbè, basta ricordare Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, eccetera eccetera. Quindi davvero molto bello Carnage, io lo andrei a recuperare, è uno dei film della scorsa stagione, magari complici le arene estive. Io sono andata un po' a curiosarmi i vari programmi delle arene estive in giro, c'è sempre Carnage quest'anno. Io poi che mi sono innamorata del cinema da bambina, andando a vedere i film d'estate con l'antizanzare, il ghiacciolo e il maglioncino sulle spalle. Non dimentichiamo Nuovo Cinema Paradiso, e parte da lì, no? Da un film fatto, proiettato all'aperto. Proiettati per cui da lì si parte. Su lenzuolate bianche, da lì parte tutto. Se vogliamo andare avanti con i consigli, vabbè, sì, brevemente vorrei, visto che abbiamo citato l'amore, sì, Amore, quindi film francesi. Mm-hmm. Io sono una grande fan dei film francesi. Secondo me il film più carino, più irresistibile di questa stagione è in realtà franco-belga, Emotivi anonimi, Amore e cioccolato. E sì, quindi vanno benissimo insieme, Amore e cioccolato. E direi che l'abbinamento è giustissimo, tanto più che Emotivi anonimi è un gruppo di supporto per persone che hanno alcuni disturbi emotivi. E quindi secondo me il punto di partenza è molto carino, qualcuno che ha dei disturbi emotivi e poi però l'amore lo trova, insomma. Anche lo sviluppo poi, sì, visto che ti è piaciuto, è carino, sì, non sì, si sì, perde. Sì, no, no, perché no. Perché a volte sai, la partenza il pretesto è molto forte. No, poi, no, però invece, vabbè, insomma, vi devono piacere i film però. Ecco, anche i film francesi comunque sono quelli che dividono molto. Cioè o piacciono sì, molto sì, o sì, proprio sì, non riesci a vedere fino alla fine, Cioè esci. Io l'unica volta in cui sono uscito da un cinema, purtroppo, era lo un dico, film francese. Sì. Non è mai successo, perché io guardo tutto fino alla fine, ma quella volta proprio non ce l'ho fatta. Non so e i gruppi di amici che litigano prima, per chi vuole andarlo a vedere, chi questo, no? Ma no, io di solito non vado mai con gruppi, no, per evitare quella cosa neanch'io. Lì. No, no, no, ho smesso da molto tempo, perché altrimenti no, crea dei conflitti assolutamente insanabili. Abbiamo parlato di film francesi, sì, qualcosa però dobbiamo dire anche dei film italiani certo, da vedere, sì, da rivedere in questa stagione. Ti farei sentire un brevissimo estratto. Con una kebab potreste bere. Te che fai, vieni. C'ho lezione, se becca mano certa. Ma che ci vai a fare? Sono soldi buttati. Oppure mia madre ci vuole mandare. Ma com'è sto tipo? A posto, un po' fulminato. Fondamentalmente famo un cazzo. Buono, dammi il numero. Chi l'ha visto l'ha riconosciuto, è sicuramente la commedia più carina italiana uscita in quest'anno. Quest'anno non è stato un anno di grandissimi incassi delle commedie italiane come era stato l'anno precedente, ma insomma sappiamo che non è stato un anno facilissimo, in generale non è stato un anno facilissimo per il cinema, però Scialla, tra parentesi, stai sereno, questo è il titolo del film di Francesco Bruni. Che dire, è un film veramente, veramente carino, con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Bobulova, Filippo Scicchità, non è la sua prima apparizione cinematografica, è uscito l'anno scorso a novembre, ma a Venezia, visto che ne abbiamo parlato parecchio, aveva vinto la sezione Controcampo Italiano e aveva ricevuto anche 5 candidature ai David. Un film veramente carino, veramente per passare una serata spensierata di divertimento, ma se dobbiamo citare dei film italiani, io citerei anche due film da rivedere. Qui non siamo né in capitolo amore né in capitolo divertimento per quanto riguarda Diaz e Romanzo di una strage, però secondo me se qualcuno non li ha visti li può recuperare per pensare un po', perché secondo me al di là del valore cinematografico dei film, dei due film in questione, sono un'ottima occasione per conoscere qualcosa se non se ne sa nulla e per riflettere un po' di più se queste cose sono rimaste un po' dimenticate nella confusione della vita di tutti i giorni. Concordo pienamente. E poi volevi chiudere invece con un film che niente a che fare con tutti questi, perché è il racconto di una storia, di una persona. È un racconto di una storia anche qui. L'amore c'è, la storia di un amore per la danza e di un'amicizia. Allora, il film è Pina, anche in versione 3D, Pina 3D, però in questo caso il 3D aveva un senso, voleva giocarci. E infatti io sconsiglio di vederlo in 2D, perché Pina va visto in 3D. Va visto in 3D perché Wim Wenders ha deciso che era il modo giusto per girare questo film. Pina ovviamente è Pina Bausch, grandissima coreografa scomparsa improvvisamente. Infatti questo film è anche la storia dell'amicizia tra Wim e Pina, dovevano girare insieme questo film, poi lei è scomparsa, lui aveva deciso di mettere il progetto nel cassetto, poi dopo qualche tempo si è svegliato, ha detto improvvisamente, ha detto no, questo non sarà un film con Pina, sarà un film per Pina. E quindi anche per questa, secondo me, questa grande forza di volontà, questa grande idea di Wim Wenders, Pina è assolutamente da rivedere. È montato un po' come This Is It, con la stessa idea di fondo, ecco, quindi il racconto dei protagonisti di una vicenda, che è una delle cose che sono andate in scena, diciamo così, inframmezzate dalle prove e da invece i momenti di grande cinema, anche c'è del grande cinema anche se è un documentario. Sono completamente d'accordo. Grazie Marta, ci sentiamo e ci vediamo domenica prossima. Il riposo del guerriero. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini, prosegue la versione estiva del riposo del guerriero ed è il momento della nostra glottologa Francesca Dragotto. Ciao Francesca. Buongiorno. Allora, abbiamo parlato delle parole estate e inverno la settimana scorsa. La parola estate se ne porta dietro tante altre e di queste parleremo. Qualcuna anche desueta e magari altre ripescate. Esattamente, rispondo però prima a delle domande, perché visto che la scorsa settimana abbiamo parlato di estate e di inverno, attraverso il sito di tuttopoli.com è arrivata una domanda, ma autunno? Sì. Anche per autunno vale la stessa cosa? Lo denominiamo a partire da una caratteristica particolare? Ecco, perché spieghiamo, semplicemente per fare un riassunto breve per chi non fosse stato all'ascolto domenica scorsa, estate arriva da caldo e invece neve arriva, inverno arriva da neve e automaticamente freddo, tanto per capirci. Esattamente. E autunno invece da dove arriva? Da pioggia? Faccio un esempio. No. Ecco, infatti autunno ha una formazione del tutto differente. C'è chi dice che si tratti di una parola di origine etrusca, però essendo l'etrusco una lingua di cui non sappiamo moltissimo, diciamo che si tratta appunto di un'ipotesi. C'è chi invece ritiene che sia collegato ad un verbo, il verbo augeo, augere all'infinito, che in latino significava accrescere, diventare grande. Questo perché non in riferimento ai frutti, ma in riferimento alla maggiore quantità di lavoro che veniva chiesta ai contadini in vista della vendemmia e di altre pratiche agricole che contraddistinguono l'avvento dell'autunno. Per cui abbiamo un riferimento ancora una volta alla vita pratica, ma non a un elemento che è segno, che è manifestazione della stagione. In questo caso il riferimento è l'uomo. Per quanto riguarda, a questo punto chiudo la serie, primavera, invece si tratta della trasformazione in un'unica parola dell'espressione primo vere, che in sé costituisce una ripetizione, perché in latino già il solo vere, o meglio vere è la forma italiana del latino ver veris, significava primavera, quindi si tratta di una formula rafforzata che abbiamo ereditato e ci portiamo dietro ormai da più di 2 millenni. Ora, messa da parte la questione etimologica, ritorno a considerare come avevamo già enunciato la settimana scorsa, la famiglia di estate, che è ben più ricca di quanto si potrebbe pensare guardando la lingua dell'uso. Tra le tante parole abbiamo estatare, per indicare il trascorrere l'estate in un luogo diverso da quello abituale. Quindi anche per dire andiamo in villeggiatura possiamo dire quest'estate estatiamo. Ma non è se sembra. Ma io non l'ho mai sentito, se lo sentissi probabilmente spegnerei la radio, cioè, nel senso che lo dovrei sbagliato, invece giusto si può dire? Cioè dove estatiamo quest'anno? Sì, anzi guarda, ora te ne dirò anche altre. Te lo sei inventata stanotte? No, ti dirò invece qual è stata la storia di questo, sì, di questo termine. Mi è arrivata, ma un po' di tempo fa, parliamo di alcuni mesi fa, una domanda di un tuo ascoltatore che, sentendo parlare di analogie, il discorso non c'entrava nulla con l'estate, mi ha scritto: ma la parola estivare è una parola dialettale, una parola volgare, o la si può utilizzare? Lì per lì pensavo che fosse una parola coniata da lui, invece poi ho fatto qualche piccola ricerca e ho visto che non soltanto è attestata, ma appunto ha un contraltare anche in estatare, e quindi naturalmente uno è formato dall'aggettivo, estivare da estivo, estatare è formato dal sostantivo, sì, da estate, però il significato è lo stesso. Sì, mi ha sorpreso però, andando a scavare, estatata, per indicare il periodo della stagione estiva, quindi è stata una bella estatata. È formato sul modello di mattinata, di serata, in cui quell'ata indica una quantità di tempo che è approssimativa, non esattamente quantificabile, quindi è il periodo di relativo all'estate, non sappiamo esattamente però quanto duri questo periodo. Abbiamo anche estatatura, per indicare l'estatare, ovvero il passare l'estate. Tutti e tre questi termini sono attestati nel corso della storia linguistica italiana, però per quanto riguarda la nostra epoca li ritroviamo principalmente in area toscana. Vengono comunque utilizzati non soltanto in contesti dialettali, ma anche appunto in contesti diversi. La lingua però, appunto, come ho avuto tante volte occasione di dire nel corso di quest'anno, consente ai parlanti di dare forme diverse alla loro creatività, ed è per questo infatti che arriviamo ad estivare, che ho citato prima e che sto recitando, perché dal participio di estivare si forma estivante, che è usato sia come sostantivo che come aggettivo ed è impiegato soprattutto, ma non solo, in zoologia per riferirsi agli uccelli migratori. Quindi estivante, sono caduta io stessa nel gioco di parole, è impiegato per indicare chi trascorre o che trascorre l'estate in un certo luogo, oppure appunto gli organismi che sono in stato di estivazione. Ma estivante non può significare anche che rende estivo? Mi viene da pensare, no, un prodotto di bellezza, sai che si inventano sempre qualcosa i pubblicitari, no? Si tratterebbe... Quindi una crema estivante, cioè che ti rende la pelle estiva, abbronzata, bella, eccetera, no? Sì, o meglio, non è ancora attestato in questo senso, però tu potresti in questo momento aver contribuito alla formazione di una neosemia, quindi un nuovo significato che si va ad aggiungere a quelli che ho appena detto. Del resto la lingua è straordinaria. È in evoluzione, lo certo, sappiamo. Ecco. Certo, certo. E anzi, quello che tu hai appena creato è un aggettivo che ben si presta ad uno slogan, lo sì, dovremmo dire a Michele Tosi. Da copywriter. Esattamente. Bene, andiamo avanti, abbiamo ancora 5 minuti. Oh, se volessimo mantenere il parallelismo con l'inverno, visto che con l'etimologia lo abbiamo fatto, dovremmo rilevare che in maniera del tutto analoga, anzi analogica, su inverno sono stati formati invernare, svernare, sì, invernata, svernata e così via, ecco, fino a fare la famiglia. Sì, sono un po' più usati questi però, perché dove vai a svernare, per esempio, si usa tranquillamente. Naturalmente, ma la differenza tra questa serie non, e la serie... Non c'è, è solo non... che dove vai a estatare non l'ho mai usato, invece dove vai a svernare sì. È curioso, adesso domani dirò dove vai a estatare, mi prenderanno per scemo, però gli farò sentire la puntata della trasmissione. Naturalmente, hai toccato un altro punto nodale, questo punto è quello che chiamiamo l'acclimatamento, cioè le cose fino a un certo punto ci sembrano strane, poi ci sembrano normali, e questo accade anche tra parole che dal punto di vista linguistico, quindi della loro formazione, del loro rapporto rispetto a una cosiddetta norma, si presentano identiche, quindi non ci sono ragioni che ostino alla formazione tanto di estatare tanto di invernare, soltanto che una, e quindi poi con il prefisso, no, diverso, sì, diventano svernare, soltanto che l'uso fa sì che svernare non ti appaia strano, mentre l'altro, che è la prima volta che senti o che hai sentito poche volte, ti appare... Sì. Desueto o comunque non corretto. Quindi, esatto, questo ci fa capire come l'orecchio riesca a sancire molte volte la fortuna di un termine attraverso la sua normatizzazione. Non voglio continuare con la famiglia dell'inverno perché vorrei aggiungere, per andare a chiudere sull'estate, qualche sì, altro tassello. Estatina, che è un diminutivo che lentamente invece ha finito per trasformare l'aggettivo in un sostantivato, in un aggettivo, quindi un nuovo sostantivo. Estatina viene utilizzato per indicare le brevi giornate invernali di mite temperatura, quindi non è più un vezzeggiativo, un elemento comunque che utilizza, tipico della lingua dell'uso, che appunto tende ad essere espressiva. Si tratta proprio di un termine che è entrato nei dizionari con questo significato ben definito. Così come l'estate di San Martino, che è diventato un sottolemma, cioè quindi lo troviamo proprio nel dizionario in corrispondenza di estate, ma un po' più sotto, proprio perché è collegato per significato ad estate, e indica quel breve periodo di belle giornate che caratterizza appunto il periodo di San Martino, che cade l'11 di novembre. E chiudo, come ho fatto l'altra volta col proverbio poco noto sull'equinozio, con un proverbio non so quanto noto sull'estate. Mutar parte dall'estate all'inverno. Viene utilizzato, almeno in principio, per indicare chi cambia idea con molta facilità. Sì. Il famoso volta gabbana, volta bandiera. E io spero di non aver mutato parte dall'estate all'inverno, visto che ho perseverato nello snocciolare i termini che fanno parte della famiglia di estate. Ecco, assolutamente no, ma mi sarebbe così piaciuto sapere cosa significhi gabbana e perché questa gabbana diventa voltata, ma non c'è tempo per farlo, perché me lo dici la settimana prossima. Comunque, se avete le curiosità, come sempre, tutopoli.com oppure la pagina del Riposo del Guerriero su Facebook. Grazie Francesca Dragò. Grazie a te, buona domenica. Il riposo del guerriero. La prossima domenica mi porto anche il bavaglino, non so se si usa ancora, che si lega indietro al collo per non sporcarsi, perché è arrivato il momento del gastronauta. Il gastronauta. Davide, come una volta, no? Ci si legava il bavagliolo al collo per non sporcare la camicia. Sì, adesso sì. Non si fa più, non si mette neanche più il tovagliolo, purtroppo, e ci si sporca e basta. Ma guarda, so l'abitudine perché. È rimasta, l'abitudine è rimasta in molti ristoranti particolari nel Maine in America e da altre parti in Canada. Te lo mettono loro. Te lo mettono loro, te lo mettono loro quando mangi aragoste. Ci sono molti posti specializzati. Ma anche gli spaghetti al sugo, perché quando tu li arrotoli schizzi sempre sugo dappertutto, è ovvio, è giusto che sia così, perché insomma, io sono famoso per gioco, macchiarmi continuamente, appunto, vedi? Ecco. E ti dirò di più, che una volta ho lasciato una cravatta, la mia preferita, dentro un cappelletto in brodo, ho lasciato proprio perché quella era impossibile da poter essere smacchiata, perché era caduta, diciamo, tutta la parte bassa era dentro al piatto dei cappelletti. No, vi diciamo questo perché Davide mi raccontava che c'è un po' un ritorno alle origini, no? Alla cucina, quella della nonna. Ormai sento, diciamo, che in questi giorni io sto raccogliendo un po' le annotazioni e le schede dei collaboratori della guida dei ristoranti del Sole 24 Ore, e chiedo anche a loro, e vedo che nessuno mi segnala più, che ne so, il genio che si ispira a Ferran Adrià, oppure il creativo, il fantasioso, ma sempre di più vedo che mi segnalano dei posti particolari, magari mi segnalano il paesaggio del posto, mi segnalano la località, mi segnalano la piazza dove c'è questo posto, e sempre meno mi segnalano, diciamo, la grandeur degli chef. Anzi, sì. Questa parola chef, secondo me, spaventa un po', si parla sempre di cuoco, si parla di... A me piace molto la parola cuciniere. Ecco, cuciniere, devo dire che un amico cuoco bravissimo, che potrebbe essere chiamato chef siciliano, si fa chiamare cuciniere. Devo dire che è bella, secondo me è la più bella definizione che si possa dare, perché non è offensiva. Cioè, chef, come dice Gualtiero Marchesi, chef si può dire di chef de cave per chi fa lo champagne, si può dire anche chef di un ufficio. Sì, beh, certo. Sì. Quindi non è così, diciamo, propria del mondo della gastronomia. No, dà più l'idea di organizzazione. Ah, infatti, ecco, infatti, sembra un organigramma, hai capito? Come, ecco, dice, la Gualtiero Marchesi, come dice Gualtiero Marchesi, in un ristorante ci deve essere lo chef e ci deve essere il cuoco, però molti pensano che lo chef sia quello che realizza, invece è l'organizzatore di cucina, sì. Diciamo, come in un'azienda c'è un direttore generale. Il direttore di cucina, diciamo, chiamiamolo un direttore d'orchestra, visto sì. Che gli chef si paragonano molto agli artisti, quindi, e io dico sempre che ci possono essere, la cucina si divide in, diciamo, due specie, ci sono i direttori d'orchestra e ci sono invece coloro che scrivono la musica, quindi siamo completamente diversi. Allora, chi scrive la musica è il creatore, sì. Chi fa il direttore d'orchestra invece è il cuciniere, quindi facciamo questo distinguo. Ecco, senti, non è, così mi viene in mente una cosa, anche un po' il fatto della crisi, a volte di doversi inventare un po' un mestiere e scoprire di avere in casa il talento di cucinare, il piacere, quindi prepararsi in questo senso e aprire un piccolo posto. Ecco, io devo fare, come posso dire, un SOS a tutti coloro che vogliono aprire un ristorante. Attenzione, un conto è far da mangiare a casa una tanto per gli amici che dicono sei bravissimo, un conto è aprire un ristorante dove bisogna cucinare mattino e sera e bisogna andare anche ad acquistare i prodotti. Quindi io credo che molti che lo fanno, come posso dire, senza pensarci troppo, appunto perché le lodi degli amici sono tali e lo vanno a fare, aprono delle attività e poi si trovano anche con in difficoltà. Io credo che, cioè, aprire un ristorante sia un impegno molto molto forte, e non vuol dire semplicemente saper fare un piatto, due piatti o tre piatti, oppure saper acquistare i prodotti. Bisogna saper fare l'uno e l'altro, e poi credo che è un impegno dal punto di vista della giornata molto forte, sì. Perché la giornata di riposo è una, ma tutti i giorni bisogna essere sul posto, non è come a casa che si fa semplicemente quando si invitano gli amici. Oggi probabilmente ci sono molti che vogliono cambiare vita, questo è vero, e la ristorazione, siccome è anche una passione, molti vanno in quella direzione, però io dico attenzione, perché ci si può pentire e ci si possono rimettere anche molti soldi, perché un ristorante oggi aprirlo diciamo è gravoso. Mentre altro discorso è questo ritorno che tu hai detto giustamente, non sarà la crisi, incide assolutamente questo ritorno alla semplicità, alla consistenza della cucina, ai posti, chiamiamoli così, che un giorno magari potevano essere quella famosa guida dei camionisti che faceva la Pirelli, sì, tantissimi anni fa, quei posti che sono stati distrutti dalle autostrade e che forse piano piano stanno tornando, perché magari la gente, anche per motivi di costi, non percorre più l'autostrada ma vuole uscire. Ma c'era anche una guida che indicava i posti dove si mangiava bene a pochi passi dai caselli delle autostrade, appunto, per aiutare. Esiste. C'è ancora, si chiama Fuori Casello, sì, è fatta dai fratelli Longo, una bella iniziativa dove appunto quella era, secondo me, appartiene all'epoca della rapidità, della velocità. Oggi credo che si scelgano anche dei posti fuori semplicemente anche per fermarsi e per andare a scoprire un po' i paesaggi, l'entroterra di molti posti. Quindi credo che ci sia un qualcosa di completamente diverso, cioè la gente forse vuole correre meno e quindi anche il mangiare non è più un fatto di rapidità e di velocità, ma è un fatto anche di nuova piacevolezza. Sì, farsi un piccolo regalo comunque ogni farsi volta. Un piccolo, no? Così, regalo. Perché... Io, cioè, il caffè è una cosa che è una mia passione nell'osservare. Il problema è il caffè. Io dico sempre che il caffè in Italia è veramente mediocre. Mediocre perché? Perché il cliente lo trangugia il caffè. Mm. Se noi andiamo in un bar, vediamo che nessuno, diciamo, lo sorbisce. Se lo gusta. Se lo gusta. Ecco, nessuno, sì, sente il profumo. Niente, si butta giù. Perché sembra una consuetudine, andiamo a prendere il caffè, giù, via. In 8 secondi. Perché te lo sei già dimenticato. Sì. L'hai bevuto e non ti rendi conto neanche di essertelo bevuto. Ma non ti ricordi neppure cosa hai bevuto. È per quello che si bevono tanti caffè cattivi in questo paese. Proprio per questo, perché la gente ne fa semplicemente un fatto di o con gli amici andiamo, sì, a bere, sì, un caffè per passare 2 secondi e continuare a parlare, o punto per bere. Io credo che invece che la rapidità, insomma, debba scomparire anche sul caffè. Gustiamoci un caffè, magari prendiamone uno in meno, ma cioè, gustiamolo e diciamo se è buono o cattivo e pensiamoci un secondo. Dicevo che si vanno a cercare dei posti anche piacevoli dove magari non si trova la grandissima cucina, però si trova una cucina ben fatta, come dicevo, semplice, dove non si trovano più, se Dio vuole, i menù degustazione che magari presentati da alcuni metro, da alcuni camerieri o da alcuni patron, e mi sembrava di assistere alla messa in canto gregoriano e quindi di non rimanere più a tavola tre ore e mezzo con questo terribile sorbetto a metà pasto che non si sapeva da dove arrivava. Per cambiare il gusto e il vino, no? Sì, guai però, se non ci fosse. Io lo ritengo una cosa abominevole, il sorbetto a metà pasto. Abominevole. Quindi... Va bene, i matrimoni di solito si fa così, no? Si fa così perché magari i matrimoni durano 5 ore. Senza magari. Cioè, sul matrimonio io posso anche capire che possa durare, però anche questo secondo me c'è un cambiamento. Perché c'è anche un altro modo di vivere un pranzo di matrimonio, cioè ci si può anche spostare, no? Dopo, certo, il pranzo sì, però basta con magari, questi finger foods. Cioè, io devo dire che il finger food mi sembra, diciamo... Lo traduciamo perché magari gli ascoltatori dicono di cosa stanno parlando, mangiano le dita, certo, no? Diciamo quel cibo che tu puoi prendere con la mano ed è un bocconcino, no? Ecco, sì, però non devi toccare, sì, il cibo con la mano. Ah no, ci vuole il bastoncino rigorosamente. Perché, certo, sì, perché finger food, lo stuzzicadente, finger, ecco, food è il modo fighetto, sì, di non sporcarsi le mani. Io invece adoro mangiare con le mani. Ad esempio non posso concepire di mangiare un culatello o un pezzo di salame, cioè, così, che certo, o il panettone con le mani, non posso mangiare col coltello. Con lo stuzzicadente. Lo devo mangiare con le mani. Come il culatello te lo metti dall'alto, bello in bocca, che scivola giù, oppure un bel pezzo di mortadella, non lo so, o un pezzo di parmigiano che sul tavolo trac lo rubi, te lo metti in bocca. A proposito, sì, c'è un posto in provincia, a Savona, che si chiama Spurcaciun, dove si mangia tutto rigorosamente con le mani. E poi voglio raccontare una storia bellissima che si mangia con le mani da... io ritengo che uno dei più straordinari chef italiani, e qui faccio una deviazione, parlo di uno chef, sia Massimiliano Laimo delle Calandre di Rubano, provincia di Padova. Ebbene, da anni in questo locale si mangiano diverse cose con le mani, ma l'ultima straordinaria, e qualcuno non so come prenderà di quello di cui sto racconterò, perché un giorno Massimiliano Laimo mi chiama e mi dice: la prima volta che vieni da me ti faccio assaggiare, ti faccio provare una cosa straordinaria. Bene, arrivo, mi vedo portare sul tavolo tappi per le orecchie e uno specchio. Dico: ma cosa sta succedendo? E mi vedo a portare della carne cruda, sì, con sotto dei sughetti, mi sembra 4-5, diciamo, montagnole di carne cruda, E Massimiliano mi dice: ti metti i tappi, ti metti lo specchio davanti e mangia con le mani. Io lo guardo e rimango trasecolo, però a me piacciono questi esperimenti. Cioè non devi ascoltare, no, giusto? Devi essere sordo come dovevi essere. Esattamente, no? Questo è il punto. Perché se tu sei sordo, sì, regoli la tua masticazione. Sì, perché la senti molto di più. La senti molto di più e quindi sei anche molto più lento, stai molto più attento, digerisci meglio e con lo specchio davanti ti guardi e vedi la tua masticazione, vedi il tutto e quindi ti concentri completamente. Ebbene, è stata un'esperienza straordinaria. Devo dire che veramente è un colpo di genio. Solo che chi era attorno e guardava questa scena avrà pensato che di lì a poco magari ero in una casa di cura molto particolare. Invece no, però perché è una sorta di, è quasi una prova di teatro, no, questa, perché ci si ascolta anche quando si mangia. Interessante invece, è invece ecco, interessantissima. Ti dico che poi riflettendoci ho riflettuto a lungo su questa provocazione e devo dire straordinaria, perché Massimiliano Alaimo non fa provocazioni tanto per provocare, ma hanno sempre un contenuto, ce ne sono molti, si altri aiuta invece a pensare, aiuta, è a un pensare, bel modo di farlo mentre altri fanno provocazione. Ci hai regalato una piccola perla, oltre alla voglia di andare a mangiarci qualcosa con le mani. Adesso tagliamo una mortadella che non c'è, ce la procureremo. Grazie Davide Paolini, ci sentiamo domenica prossima. Il riposo del guerriero. E nel nostro angolo dedicato al mondo dei viaggi, visto che insomma d'estate si cerca di viaggiare, anche se non si può andare in vacanza, almeno una gita fuori porta bisognerebbe riuscire a concedersela. Mi auguro che ci riusciate ovviamente, e un sistema per farlo è la motocicletta. E quindi c'è Davide Malesi al telefono. Davide, buona domenica. Buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Non sei in moto in questo momento? No, no, in questo fermo momento non, ecco, non sono in moto, sono fermo per fortuna, altrimenti avremo qualche difficoltà a parlare al telefono. Allora, tra le tante cose che hai scritto c'è anche questa: 101 itinerari da fare in motocicletta almeno una volta nella vita. Ho aperto la E di motocicletta perché sono un po' milanese, sarebbe motocicletta, però insomma spero che me lo concediate l'errore. Allora, dove scegliamo qualcuno di questi itinerari irrinunciabili? Guarda, tu poco fa parlavi appunto di gita fuori porta e per chi non ha l'occasione, non ha la fortuna in questo momento di poter andare, di poter fare delle lunghe vacanze. E insomma, per esempio per chi nel libro, appena il libro comincia, per chi è diciamo del nord ce n'è uno molto molto bello che tra l'altro meriterebbe secondo me più fama, che è il Giro del Lago di Varese, che è un lago bellissimo. E tra l'altro si gira con molto piacere sia in moto sia addirittura in bicicletta, perché è completamente attorniato da un'area ciclabile, quindi volendo addirittura, se uno non ha passione per il motore, se lo può fare pedalando. E quindi restiamo sulle due ruote in questo senso, no? Ecco. E quindi noi partiamo da un punto, qualunque punto va bene, e poi facciamo tutto il giro, ritorniamo al punto di partenza, un anello. Sì. Sì, è il lago di Varese poi si presta in modo particolare a questo tipo di soluzione. A un certo punto poi nell'itinerario in realtà io suggerisco una deviazione su una piccola chiesa che sta su una piccola pieve molto antica che sta dalla parte sud del lago e che è diciamo dietro c'è una leggenda abbastanza interessante, una leggenda medievale che mi è piaciuto raccontare nel libro, però veramente il giro si può appunto cominciare e finire da qualunque parte. Ecco, è un po' diciamo quello che si fa con il lago di Garda, no? Anche se è molto più grande, quindi il giro è un pochino più impegnativo, però è quest'anello, no? Che nel caso del lago di Garda tocca addirittura tre regioni e quindi tre anche ambienti molto, molto diversi, e quindi è un po' la stessa cosa in piccolo, penso di aver capito una situazione sì, di questo genere. È la stessa cosa in piccolo, nel senso che si fa diciamo in un periodo di tempo sicuramente più breve, insomma, o se va anche andando piano, anche andando con molta calma e prendendosi delle pause, appunto con una deviazione come quella che ho suggerito io, diciamo che se lo fa tranquillamente in meno di una mattinata. Ah, ecco, per cui insomma una giornata è più che sufficiente, anche con tanto di ristoro e così fermarsi un attimo a mangiare qualcosa. Questo è un itinerario, un altro, dove ci spostiamo ovviamente. Ma un altro, ci spostiamo, io direi, insomma, spostiamoci dal nord verso il centro, un altro itinerario, anche qui per chi non ha occasione di, diciamo, di fare, ci sono anche degli itinerari lunghi nel libro, però per chi non ha occasione di fare itinerari molto lunghi, per esempio nel centro ce n'è uno molto molto suggestivo, che da Tivoli scende verso Villa Adriana, che è una strada particolarmente bella da fare di notte, perché scendendo abbiamo innanzitutto un bel vedere meraviglioso, e scendendo da Tivoli verso Villa Adriana c'è tutto un tappeto di luci che in qualche modo ci vediamo davanti durante la nostra discesa notturna. Ovviamente ci sono dei tornanti, la strada è impegnativa, quindi guidare con prudenza. Certo, ci spostiamo al sud adesso? Sì, ci spostiamo al sud, direi un itinerario bello per il sud, anche qui non lunghissimo, che io consiglio, itinerario tra l'altro che io consiglio vivamente anche qui per la sua straordinaria bellezza paesaggistica, l'escursione che io faccio partire da Tonnarella, da Furnai, che è un paese sulla costa nord della Sicilia, ma che può partire da più indietro, da Milazzo o addirittura da Messina, e arriva fin su al santuario e al teatro greco di Tindari, su una strada che anzitutto, appunto, per chi ama portare la moto, è bellissima da fare, ci sono tanti tornanti, tante curve, e quindi è una strada che in qualche modo mette anche un po' alla prova il motociclista che sale. E poi soprattutto, una volta che si è arrivati su, si ha una visione meravigliosa della costa siciliana e del mare Mediterraneo, una delle veramente delle visioni dall'alto più suggestive che si possa immaginare di questo nostro mare. Davide, ci ha fatto venire la voglia di viaggiare e andare a scoprire anche con le due ruote, insomma, perché è un altro modo di vedere le cose. 101 itinerari da fare in motocicletta almeno una volta nella vita. Davide Malesi, grazie, buona domenica. Grazie a tutti gli ascoltatori. Davide ha concluso con la Sicilia e noi allora parliamo dell'altra grande isola. Molti saranno, spero, in Sardegna, e anche i sardi stessi che in Sardegna ci stanno, che magari però non conoscono alcuni luoghi. Ci sono almeno 101 tesori nascosti in Sardegna da vedere, come sempre, almeno una volta nella vita. Antonio Maccioni, buona domenica. Buongiorno a tutti. Saranno stati più di 101, però avrei dovuto fare una cernita anche tu, visto che sei nato a Oristano, conosci la tua terra. Allora, da dove partiamo? Ma intanto partiamo dal fatto che in Sardegna è possibile ritrovare e riscoprire davvero mille e mille tesori solo a partire dalla individuazione dei quattro elementi naturali, ai quali si aggiunge la quintessenza, ovvero l'eterno, qualcosa che va al di là sicuramente di ciò che è terreno. Quindi partiamo dall'acqua, ovvero da quelli che sono i tesori sommersi, e in particolare dalle fonti di San Leonardo di Siete Fuentes, dove si dice che si trovino i resti di un antico monastero che sarebbe sorto nel XII secolo, in prossimità appunto di una fonte, o meglio di sette fonti, sono le Siete Fuentes, naturalmente, dalle proprietà davvero straordinarie. E l'acqua è appunto un tesoro fondante all'interno di questo percorso, è la stessa che ritroviamo nelle fonti miracolose nei pressi di Scano Montiferro, proprio nel Montiferro, che è una regione storica dell'isola nel versante centro-occidentale, e qui troviamo allo stesso modo delle fonti dove si dice, secondo le più accreditate ricostruzioni storiche, nel 1600 sia sorta una chiesa dedicata al martire Antioco, un martire di origini africane, di origini comunque orientali, dove appunto delle fonti avrebbero la possibilità e la capacità di fare veri e propri prodigi. Si dice addirittura, proprio all'interno del processo dei miracoli che ricostruisce la canonizzazione di Sant'Antioco di Sulcis, si dice che una donna probabilmente proprio passando da quelle parti venne guarita in prossimità delle fonti dalla scrofola, ovvero una sorta di tumefazione tubercolare della quale era affetta, ed è stato un miracolo determinante secondo le questioni accreditate. Queste fonti sono visitabili ovviamente, ma non so, adesso mi immagino un pellegrinaggio a raccolta dell'acqua che dalle fonti scaturisce, oppure no, non funziona così? Ma in realtà non si tratta di un vero e proprio pellegrinaggio. Tra virgolette, no, sai, quando c'è una fonte che in qualche modo ha una storia, anche per la bontà dell'acqua, non lo so, immagino, ma è una mia supposizione. Chiaramente, è un'acqua che è davvero apprezzata nel territorio, in realtà poi viene anche distribuita attraverso la rete idrica per decine di centri limitrofi, ed è singolare che da un centro così piccolo poi si dia da bere davvero a un territorio notevole, relativamente notevole. Chiaramente il significato religioso e il significato anche popolare va al di là dell'utilità. Si realizzano dei veri e propri pellegrinaggi, chiaramente nel senso che da quelle parti si festeggia proprio il martire per addirittura tre volte l'anno ci si reca appunto in processione, in preghiera. Questo sì, certo. Ecco, allora spostiamoci dall'acqua invece, che tu parli appunto di elementi nel tuo volume, e andiamo sulla terra. Andiamo sulla terra e ci spostiamo in un territorio che è quello poi dei bronzetti, se vogliamo, dei nuraghi, e la terra delle ricchezze che vengono ritrovate in alcuni casi sotto le cattedrali, vengono ritrovate sotto delle chiese e sono finite lì chissà come, si raccontano in alcuni casi delle leggende davvero interessanti. I tesori sotto la terra sono tanti, dalla Venere di Macomer, della quale lo stesso Elio Vittorini, quando soggiornò da quelle parti, non aveva notizia. Lo stesso Elio Vittorini, che poi proprio nel suo racconto Sardegna come un'infanzia, considerava i bronzetti come qualcosa davvero di, in un certo senso, se non ridicolo, comunque scarsamente apprezzabile. Per vederne davvero degli esemplari molto interessanti è possibile visitare il Museo Archeologico di Cagliari, che ne raccoglie un numero considerevole. E la terra poi ha a che fare anche con dei tesori, essendo tesori ritrovati, in alcuni casi possiamo dire davvero molto molto originali, come quelli della collezione di Luigi Piloni, che vennero donati all'Università di Cagliari, sono tuttora custoditi all'interno di un interessantissimo museo proprio nei pressi del Rettorato di Cagliari. E da quelle parti, oltre a una serie di cartine, carte geografiche davvero curiose e in alcuni casi di grandissimo valore, si trovano degli oggetti molto singolari, che sono gli spoligadentes, ovvero degli stecchini. Sì. Che vengono così conservati e tramandati dalla tradizione, che venivano usati per la toeletta, ma avevano anche addirittura dei significati e dei valori di protezione, scaramantici, liberazione dell'individuo dai mali che gli venivano mandati, se possiamo così dire, dagli altri. È stato molto chiaro, potevano essere magari anche regalati come oggetto di buon augurio, no? Per liberarci dai problemi. Ci sono molti tesori da scoprire in Sardegna, alcuni sono raccontati in questo volume, 101 tesori nascosti di Sardegna, da vedere almeno una volta nella vita. Grazie Antonio Maccioni, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Il riposo del guerriero. Ultima parte del riposo del guerriero in versione estiva, come sempre dedicata all'astrologia. Antonio Capitani, ciao, bentornato. Ciao, grazie. Lo so che molti ascoltatori, come sempre, si lamenteranno, lo fanno, per quando si parla di astrologia, sai, non è scientifica, non è autorevole, eccetera, però insomma d'estate ci sta anche, ma non solo d'estate, ci sta sempre. Sempre. Però insomma ci piace anche raccontare, perché non ci crede, come al solito, diciamo, ascolti lo stesso, poi sai. Tragga le proprie conclusioni. Esatto, va bene. Oggi però parliamo, abbiamo parlato d'amore la volta scorsa, oggi occupiamoci di chi d'estate lavora. Sì, certo, ci sono tante persone che hanno poi non solo a che fare con l'industria vacanziera, gli esercizi commerciali, gli stabilimenti, le agenzie di viaggi, ma anche poi chi resta veramente ai posti di combattimento consueti in ufficio fra afa e zanzare, giusto? Sì, quindi possiamo magari anche dare una mano a chi lo sta cercando il lavoro, sì, in questo mese. Certo, ecco. Allora partiamo subito con l'Ariete, come al solito. Sì. Bene, è un periodo, devo dire, molto brillante dal punto di vista professionale per l'Ariete, perché il pianeta degli affari commerciali, Mercurio, il pianeta dei quattrini, Giove, sono in orbita eccellente, quindi l'Ariete che è rimasto in azienda può mettersi in evidenza, devo dire, in maniera particolarmente fruttuosa proprio nel momento in cui tanti colleghi magari sono in ferie e quindi il capo può notarlo ancora di più. Basta che il capo non sia in ferie, ovviamente, perché se beh, ma uno dei capi c'è sempre, quindi sono il capo, sarà il vice, insomma. Per cui secondo me agosto, ma anche un po' i mesi che verranno per l'Ariete, sono particolarmente anche promettenti. Anche per cercarlo lavoro. Anche per cercarlo, punto, anche se fosse un'occupazione stagionale temporanea con questo Mercurio, però vale la pena presentarsi, candidarsi. Il Toro, che con Mercurio contrario forse o deve faticare il doppio per ottenere quello che otteneva solitamente con la metà degli sforzi, o probabilmente deve avere a che fare con persone con le quali trovare un accordo, una sintonia intellettuale e mentale non sarà semplicissima. Anche solo organizzare la preparazione dei gelati, se lavori in gelateria, piuttosto che la ripartizione dei turni, per esempio, sarà non semplice, proprio perché Mercurio crea delle divergenze nell'ambiente di lavoro, però poi c'è Venere armoniosa e quindi io credo che un accordo alla fine lo trova. Non è, ecco, un agosto brillantissimissimo dal punto di vista professionale forse per il Toro, lo è invece per i Gemelli, che sono fortunati fra i fortunati. I Gemelli possono chiedere e ottenere quasi tutto ciò che vogliono, non soltanto nel mese d'agosto, ma anche nelle settimane, nei mesi che verranno. Giove dovrebbe assicurare un buon andamento degli affari, Giove è pianeta dei quattrini. Mercurio che allarga la cerchia della clientela, che può portare alle orecchie del Gemelli la dritta fortunata, azzeccata. Non dimentichiamoci che c'è anche Urano a favore dei Gemelli, che è appunto il pianeta delle opportunità propizie che arrivano dall'oggi al domani, da un minuto all'altro. Quindi i Gemelli secondo me possono fare passi da gigante nelle proprie attività professionali. Il Cancro, che forse non ha tanta voglia di lavorare, o se ce l'ha, insomma, cioè non ce l'ha in questo periodo. In questo periodo, in soprattutto genere, ad agosto, perché Venere lo spinge a, come dire, lanciarsi nei piaceri della vita più che nei doveri. Marte è contrario, quindi guai a chi lo accarezza contropelo, al Cancro, perché parte di colpi di chele. Quindi non è proprio quel che si dica il collega ideale, ecco, in questo mese di agosto. E quindi forse il consiglio è riposarsi. Il consiglio, ecco, se non altro partire nei fine settimana, ecco, non restare sempre lì dove lavora. Il Leone invece, il Leone va molto bene, Mercurio lo rende particolarmente attivo, solerte, quasi ubiquitario, nel senso che sarà in più posti contemporaneamente, proprio perché Mercurio gli dà il suggerimento giusto, il fiuto giusto per essere nel momento giusto, appunto, quando è richiesta o anche quando non è richiesta la sua presenza, perché capta, coglie al volo le opportunità vantaggiose. Il Leone poi porta a casa anche dei bei quattrini, visto che Giove è in rapporto armonioso con il segno, direi che è una fase particolarmente interessante. Suggerisco ai Leone di portare in questo momento tanto più grano possibile nei granai, perché poi quando arriverà Saturno, forse d'ottobre. Ecco, suggerimento è, anche se ci fossero dei leoni in cerca di lavoro, di proporsi proprio in questo assolutamente periodo, sì, sì, certo, certamente perdere. No, di candidarsi, perché le cose vanno bene. La Vergine, so che forse sei particolarmente interessato. Sì, la Vergine, agosto. Ma guarda, no, io devo sempre dire che con questo transito prolungato di Mercurio, io credo che la Vergine da sola compirà meraviglie. Forse non avrà neanche bisogno di avere tanti collaboratori, l'aiuto di chissà quante persone, anche perché forse potrebbe rivelarsi più nocivo che proficuo l'aiuto degli altri. Io direi che il messaggio da lanciare alla Vergine è di lavorare quanto più possibile possibile in autonomia, anche comunque seguendo le direttive di capi o di colleghi più anziani, e anche se sta cercando il lavoro, di puntare sul proprio fascino, su un po' di faccia di glutei, secondo me, che porta il contatto giusto e l'ingaggio giusto. Quindi in ufficio entro di sedere, quello ecco, vuoi dire? Ecco, vabbè, facciamo così. Bilancia. La bilancia è qui, insomma, con questo Marte nel segno, la bilancia si assoggetta malvolentieri ai doveri. Venere è contraria, non ha neanche, come dire, un risarcimento amoroso, però c'è Giove che interverrà là dove la scontrosità della bilancia combinasse dei guai. Giove, con un colpo di fortuna, raddrizza subito la barca. Quindi, insomma, anche suo malgrado, la bilancia porta a casa dei successi, anche le bilance in cerca di un'occupazione. Quindi non fatevi scoraggiare. No, assolutamente. Sì, ma metteteci anche del vostro, non andate in giro col pugnale fra i denti, insomma. Scorpione. Lo scorpione che ha Mercurio storto, lo Zebedeo fuma, sì, l'altro gira come un frullatore, e quindi lo scorpione non è anche lui proprio particolarmente conciliante. È un po' spiazzante, perché a momenti di estrema dolcezza, collaborazione, determinati dal trigono di Venere, poi arriva il momento in cui ti dà la staffilata con l'affermazione che ti raggela, la frase che dice: ma come, fino a 5 minuti fa era collaborativa, e invece... E quindi state attenti a non conquistare qualcosa e poi per una frase sbagliata alla fine perderlo. Esatto, ecco, quindi lo scorpione, sì, insomma, non ha un'estate proprio da 110 lode, ma ci si può accontentare. Parliamo di lavoro, in questo momento. Sì, sempre di lavoro. Il Sagittario che con Mercurio a favore può conoscere gente utile, può trovare l'occupazione anche stagionale, può portare a casa anche indirizzi importanti ai quali rivolgersi poi anche finite le vacanze d'agosto. Però c'è Giove contrario, forse a fronte di tanto impegno e sbattimento i guadagni non saranno proporzionali. Investite sulla vostra immagine, sul vostro nome, su quello che volete, poi i quattrini arriveranno. Il Capricorno è ispido, un po' ombroso e scontroso, un po' Feld, perché avrà il garbo del Rottweiler, secondo me. Simpatico. Ecco, e quindi sul lavoro, che sia capo, che sia sottoposto, che sia libero professionista, il Capricorno deve un po' ammorbidirsi, perché insomma non si può sempre andare in giro con la baionetta sguainata, e perché poi i rapporti interpersonali ne risentono. Quindi io direi che insomma il lavoro è un po' così per il Capricorno. Un po' meno caustico. Anche un po' meno caustico, ma anche, ripeto, un po' meno assertivo, un po' meno dittatoriale, un po' meno egoriferito e pretenzioso. Questo è il mio punto di vista, si fa come dico io. No, è la cosa peggiore che il Capricorno possa fare. Bisogna essere un po' più morbidi. L'acquario. Beh, l'acquario io dico sempre che è la più mirabile faccia di glutei dello zodiaco. Quindi Marte è bello, Giove è bello, Urano è bello, Saturno è bello. L'acquario non solo in questo mese d'agosto può chiedere alle stelle quasi tutto ciò che desidera, con la quasi totale fondata speranza di ottenerlo. Quindi l'acquario, insomma, secondo me si può sintetizzare, va tutto bene. Bello, sì, appunto, molto. Infatti, magari avvicinatevi ad acquari. Agli acquari, sì. Anche se quel tuo Mercurio in opposizione ogni tanto li fa un po' sclerare, ma chi se ne importa. Ci voleva qualcosa di storto. Sì, sennò... certo. Pesci. I pesci che hanno Venere a favore, quindi sono dei cucciolotti, sono disponibili, sono buoni, sono collaborativi, fanno colpo anche con il proprio fascino, quindi... Si sanno farsi amare. Sanno farsi amare, anche in sede di colloquio, anche nei posti dove lavorano solitamente, che sia un lavoratore autonomo o che sia dipendente. Secondo me il pesci nel mese di agosto porta a casa soddisfazioni intriganti, e secondo me ci sono anche dei rumors rispetto al pesci che potrebbero darlo proprio per candidato per una futura promozione, ma imminente promozione, miglioramento relativo proprio all'assegnazione di un compito più prestigioso, mansioni migliori al pesci. Grazie Antonio Capitani, come sempre, ci sentiamo anche la settimana prossima. Grazie a tutti, grazie a Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia, e a voi buona settimana da Stefano Gallarini.